in primo piano. Buona giornata e buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo come i quotidiani questa mattina in edicola presentano i fatti più salienti, più importanti, e sicuramente spicca come rilievo la vicenda della Libia, una doppia lettura in qualche modo per le vicende libiche, perché alla vicenda dei migranti, dei 200 morti, così come titola la stampa, che sono appunto morti cercando di raggiungere le coste italiane, si aggiungono le vicende belliche con l'aeroporto di Tripoli che sarebbe in mano ai jihadisti. L'uso del condizionale è perché appunto le informazioni su queste zone di guerra sono sempre un po' frammentarie e incerte, e naturalmente ci sono controffensive sempre in corso. Proprio la stampa appunto dedica il suo titolo principale alle questioni libiche: migranti, 200 morti sognando l'Italia, coste libiche fuori controllo, Tripoli, aeroporto jihadisti. Per capire quale sia la situazione dei migranti, che poi ci riguarda direttamente, perché come sapete noi siamo direttamente impegnati nel cercare di soccorrere queste carrette del mare, questi disperati che cercano di sottrarsi alle guerre, alle rivolte che sono in corso nei vari paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Una corrispondenza sulla stampa da Guido Ruotolo: aeroporto agli islamici e Parlamento esiliato, la Libia sta esplodendo, le coste sono senza controllo, Tripoli sempre più spettrale. Allora, se le questioni relative al califfato dell'ISIS in Iraq potevano sembrarci lontane, non così naturalmente le vicende della più prossima, in senso geografico, Libia. Tra l'altro si legge in questo retroscena di Guido Ruotolo: lungo i 170 km di costa libica che sono utilizzati dalla flotta dei natanti che trasporta i disperati che cercano di arrivare in Italia, cercano di arrivare per poi ricongiungersi con parenti e amici in altri paesi europei, ogni casa di ogni villaggio, piccolo centro, cittadina, nasconde due o tre immigrati, rifugiati, irregolari in attesa di salpare. Dai sindaci in giù sono tutti dipendenti dall'industria del traffico dei clandestini. Città come Svarà sono diventate ricche con i cantieri navali e i porti di partenza. Le statistiche ufficiali fissavano a ieri 104.928 uomini, donne, vecchi, bambini salvati o sbarcati in Italia. Almeno 2.000 però mancano all'appello. E poi naturalmente le questioni con l'Unione Europea, che conosciamo bene, da tempo c'è una polemica seconda solo forse a quella del famoso 3% del deficit PIL, perché l'Italia appunto si trova a fronteggiare con una sua operazione quello che l'Europa dovrebbe in qualche modo affrontare tutta unita, per cercare di dare soccorso a questa pressione umana. Questo dalla stampa, ma anche il Corriere della Sera questa mattina con un titolo analogo dedica la sua prima pagina, buona parte della sua prima pagina, alle vicende libiche. Libia nel caos, tragedia in mare, e poi l'allarme lanciato dal nostro ministro degli esteri Alfano: gli integralisti possono colpire, vigilanza altissima. Il resoconto del Corriere della Sera già in prima pagina. Salto dal Corriere della Sera a Il Giornale, perché un'altra corrispondenza sempre di un inviato in Libia, cioè Fausto Biloslavo, compare su Il Giornale e segnala che appunto le milizie islamiste, che sono alleate dei seguaci del califfato, ripeto, è più o meno la stessa corrente, semplificando un po', insomma, ma la stessa corrente del califfato dell'ISIS, quello per capirsi della decapitazione di Foley e così via, avrebbero ormai conquistato, scrive Biloslavo sul Giornale, l'aeroporto internazionale di Tripoli, che è a sole 2 ore di volo da Roma. I combattenti di Misurata sono entrati nel terminal passeggeri ieri sera, hanno annunciato di avere il pieno controllo dello scalo, ma la battaglia, segnala Biloslavo, è durissima ed è proseguita nella notte. Il boato delle cannonate scuote la capitale. Dopo oltre un mese di combattimenti e 400 morti, la coalizione dell'Operazione Alba potrebbe averla meglio sulle forze più laiche e filo occidentali guidate a Tripoli dalla milizia di Zintan. Un paese, questo, che emerge dal resoconto anche di Biloslavo sul Giornale, oltre che da quello di Ruotolo sulla stampa, che appare completamente fuori controllo. Questo per quanto riguarda le vicende libiche. Naturalmente poi anche altri giornali dedicano alla tragedia libica dei migranti appunto annegati mentre cercavano di raggiungere l'Italia, la loro prima pagina, e Il Giorno in particolare decide di utilizzare una foto particolarmente raccapricciante in cui si vede un cadavere che galleggia e sotto la scritta Mare Nostrum, in qualche modo insomma una foto che, come si dice, non ha bisogno di ulteriori commenti, l'immagine è decisamente forte. Ma proprio dalla prima pagina del Giorno veniamo all'altro tema, cioè le reazioni al discorso di Draghi a Jackson Hole, a questo simposio con i governatori delle banche centrali. Draghi più o meno ha detto, riassumendo malamente, la BCE non può fare le riforme al posto dei governi, però è disposta a fare anche cose non convenzionali per sostenere la ripresa, per sostenere la ripartenza dell'occupazione. E allora Il Giorno ci segnala: Parigi, la UE, l'Unione Europea segue Renzi, per il ministro dell'economia francese la ricetta italiana è quella vincente. E poi Renzi stesso, l'abbiamo ascoltato nel giornale radio, ha commentato positivamente il discorso di Draghi: bravo Draghi, più flessibilità e meno burocrati. Questo appunto sul quotidiano nazionale Il Giorno. Ma allo stesso modo su Repubblica anche il patto offerto da Draghi alla UE, Renzi che dice bene la BCE. E qual è questo patto? Quale sarebbe questo patto? Beh, più o meno appunto sì agli investimenti se ci sono tagli alla spesa, così lo riferisce Federico Fubini, paragonando anche il periodo del 2011, dell'estate del 2011, quando appunto ci fu un richiamo della BCE all'Italia. Allora ricorderete, poi si arrivò alla crisi con lo spread a livelli altissimi e poi la caduta del governo, allora Berlusconi e l'incarico a Mario Monti. Ecco, questa volta l'offerta di Draghi, lo spiraglio offerto dal governatore della BCE è quello di una approvazione per investimenti pubblici, però a condizione che si tagli la spesa, specialmente in quei paesi come il nostro dove la spesa appunto è più elevata. E poi tra le proposte appunto spicca il mercato del lavoro, e proprio al lavoro è dedicato infatti l'editoriale oggi sul uno dei commenti di oggi sul Sole 24 Ore, affidato al vice direttore Fabrizio Forché: il lavoro la priorità. E dice Forché, scrive Forché, dopo giorni passati a strologare sui contenuti del dialogo Renzi-Draghi e Città della Pieve, ci ha pensato il presidente della BCE a dare qualche indizio in più. La BCE, ha detto nel suo intervento, non può sostituirsi ai governi che devono fare le riforme, e la riforma decisamente prioritaria è quella del mercato del lavoro. E continua Forché dicendo: non è dato sapere come il tema sia stato affrontato nel dettaglio dell'incontro con Renzi, ma questo è il Draghi pensiero ed è difficile non condividerlo se si guarda le differenti performance sull'occupazione nei vari paesi europei interessati dalla crisi. Gli stati che hanno introdotto per tempo maggiore flessibilità fanno registrare la risposta migliore in termini di tassi di disoccupazione. Così Forché sul Sole 24 Ore questa mattina. Tra l'altro il Sole 24 Ore dedica il suo titolo principale all'attuazione delle riforme, eterna spina della nostra politica e della nostra amministrazione. Le riforme risultano attuate al 47,8%, siamo quasi a metà del cammino. Mancano 477 decreti, mancano soprattutto, sono in ritardo, le norme sulla ricerca e sulle semplificazioni. A pagina 2-3 oggi sul Sole 24 Ore trovate anche una grafica molto ampia che divide appunto il livello di attuazione a seconda dei governi che sono stati in carica in questi anni, quindi il governo Monti dall'estate, ripeto, dal novembre del 2011, dopo l'estate dello spread, l'estate della lettera di monito all'Italia, e a che punto siamo con l'attuazione di questi provvedimenti, poi il governo Letta e poi appunto il governo Renzi. Spicca il fatto che sulla legge di stabilità, ad esempio varata dal governo Letta, legge di stabilità per l'anno in corso, l'attuazione si afferma a un quarto, al 25%, così come lo leggevamo ieri, tra l'altro, in un articolo sul Corriere della Sera, il riordino delle province che risulta non attuato, mancano 9 provvedimenti, ma tutto il dettaglio, appunto, ne mancano 477, per tutto il dettaglio puntuale vi rimando al Sole 24 ore questa mattina in edicola. In primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza. Eravamo sul Sole 24 ore qualche attimo fa, prima di fermarci per le informazioni sul traffico, e allora restiamo sul Sole 24 ore, dove un articolo di Francesco Prisco ci parla di Pompei. La cosa si collega bene a una intervista che compare invece sulla stampa al ministro Franceschini, che pure appunto cita Pompei, il sito archeologico più conosciuto del mondo, e un sito che però fatica, stenta a decollare, soprattutto a trasferire la sua enorme capacità di attrazione per quanto riguarda i turisti, i visitatori, anche dal territorio circostante. Questo è il senso dell'articolo oggi di Francesco Prisco sul Sole 24 Ore, l'occasione mancata di Pompei. Gli scavi si confermano un potente attrattore, ma non riescono a generare una ricaduta economica stabile sul territorio. E ci segnala sempre nell'articolo, il 2014 dovrebbe chiudere con dati migliori di un già eccezionale 2013, quando i turisti agli scavi sono stati 2 milioni e 800 mila persone, una crescita di quasi 6% rispetto all'anno prima, di cui 2 milioni e 400 mila solo nel sito principale. Gli introiti sono stati di 22,7 milioni di euro, con una crescita del 6,6%. Eppure i flussi turistici degli scavi, scrive Prisco, attraversano solo di sfuggita l'area che sta fuori le mura, che d'altra parte non avrebbe neppure le strutture idonee ad accoglierli. Tra l'altro, come si ricordava anche nei giorni scorsi, proprio sul Sole 24 Ore, è oramai una corsa contro il tempo, c'è più dell'80% dei lavori da avviare entro quest'anno per non perdere i finanziamenti erogati dall'Unione Europea per la tutela di Pompei. Questo sul Sole 24 Ore di questa mattina, ma come vi dicevo la cosa si collega ad alcune dichiarazioni di Franceschini, oggi intervistato dal Mattia Feltri sulla stampa, che appunto dice, ha proposto di illuminare Pompei di notte per appunto incrementare anche i visitatori. Dice: vediamo se l'ENE, la cui ho girato l'invito di occuparsene, è interessato. Intanto, ricorda Franceschini, il governo ha varato l'Art Bonus, che prevede un credito di imposta del 65% per aziende o privati che investono 1000 euro o 10 milioni in un sito o in un museo. Però attenzione, Pompei è il grande sito, come il Colosseo, gli Uffizi, Venezia, su cui c'è senz'altro da lavorare, ma dobbiamo, è la indicazione del ministro, recuperare il patrimonio minore, sterminato e meraviglioso, perché tutto il sud, con la Sicilia, Napoli, i Bronzi Tiriaci, i Sassi di Matera, raccoglie soltanto il 15% dei turisti che vengono in Italia. È la domanda polemica, chiaramente, del ministro, provocatoria del ministro, che appunto invita a non disperdere anche le occasioni oltre i grandi momenti di richiamo, come possono essere Pompei o il Colosseo. Questo questa mattina sulla stampa. E visto che il ministro parla di detrazioni e di art bonus, allora questo ci dà l'occasione per passare sul Messaggero, dove c'è qualche indicazione per quanto riguarda la legge di stabilità. Cominciano un po' le trattative, venerdì dovrebbe arrivare il varo di questi provvedimenti definiti di Sblocca Italia, con delle indicazioni per la scuola, ma probabilmente anche delle indicazioni in materia fiscale, in materia di sconti fiscali. Ma che ne sarà dei nostri sconti fiscali? Il Messaggero questa mattina segnala che sulle spese mediche è allo studio una stretta per i redditi che superano i 55.000 euro, cioè lo sconto che attualmente viene riconosciuto, la detrazione, per essere molto puntuali, la detrazione che viene riconosciuta attualmente per le spese mediche verrebbe condizionata al livello di reddito, quindi con un livello di reddito più alto la detrazione diminuirebbe o forse verrebbe tolta del tutto, questo lo sapremo naturalmente al varo dei provvedimenti. Il titolo principale però del quotidiano romano è per la scuola. Scuola, rivoluzione per i prof. Renzi, la riforma complessiva sarà il 21 agosto, quindi siamo vicini al varo, si parla appunto della prossima settimana. In Consiglio dei Ministri vi stupiremo. Per gli insegnanti si annuncia una carriera basata sulla meritocrazia e poi i corsi di aggiornamento obbligatori. Proprio dalle pagine 2 e 3 del Messaggero vi do qualche indicazione, ci sono modifiche previste per i programmi di studio, tra l'altro con la decisione del governo a investire sulle connessioni internet veloce nelle scuole, con l'insegnamento della lingua inglese che, oltre a venire ribadito nella scuola primaria, diventerà materia dell'esame di maturità, un rafforzamento nello studio di geografia, musica e storia dell'arte, materie che attualmente sono uscite un po' neglette, diciamo un po' dimenticate degli ultimi riordini, e sono alcuni appunto dei cambiamenti ricordati dal Messaggero, attesi per il 29 agosto per questo piano che verrà presentato, poi discusso in un dibattito pubblico con gli operatori, i vari soggetti operanti nella scuola, e infine si pensa per la fine dell'anno completamente approvato. Gli insegnanti saranno obbligati ad aggiornarsi, saranno obbligati all'aggiornamento, ci sarà anche il superamento in qualche modo della mancanza di collegamento tra la retribuzione e il merito individuale dell'insegnante. Questa è l'indicazione che si attende appunto da questo pacchetto di provvedimenti per la scuola il 29 agosto. E poi l'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea per costruire e per ammodernare gli edifici scolastici italiani, che in molti casi, come sappiamo, sono in grave difficoltà, e quindi si pensa di ricorrere anche ai fondi europei per poter intervenire sul nostro patrimonio scolastico. Tra l'altro, proprio alla ripresa, ai temi della ripresa che più o meno potrebbe cominciare tra domani, lunedì 25 agosto, e il lunedì successivo, quello del 1 agosto, il Messaggero dedica due pagine sulle i vari nodi, i vari temi in evidenza. Naturalmente lo sblocca Italia, ci sono questi fondi soprattutto per il rilancio delle opere pubbliche, poi la spending review di cui ancora non sappiamo se si interverrà di più sulle partecipate oppure su altre forme, retribuzioni dei dipendenti pubblici o altro. Infatti gli statali sono citati anche dal Messaggero in questa doppia pagina dove tutti questi temi vengono riassunti. Un altro tema, quello della giustizia, e poi il nuovo Senato, dove si va avanti sul testo che è stato approvato in una prima votazione, ma sull'italicum, cioè il muro, segnala il Messaggero, dei piccoli partiti. E poi la giustizia, e ancora il fisco, con l'obiettivo di confermare il bonus degli 80 euro per il 2015. Vedremo se però appunto questo verrà poi condizionato, come vi dicevo, a un riordino, per usare un eufemismo, a una riduzione, per essere un po' più brutali, delle detrazioni, degli sconti che ci sono attualmente. Tra l'altro, per le questioni delegate alla riforma elettorale, vi segnalo il titolo che non la manda a dire, del Fatto Quotidiano: le grandi riforme dal Porcellum al Merdinellum, questo il titolo del Fatto Quotidiano, è il titolo poi che richiama una intervista a Roberto Calderoli, già appunto indicato come padre del Porcellum. Poi in realtà lui spiega in questa intervista, ricorda una volta di più che quella legge elettorale lui l'ha più subita che altro, così riferisce al Fatto Quotidiano di oggi, e Appunto, Calderoli è molto critico, dice la maggioranza dei Democrat è contraria alla riforma e sul Senato elettivo Renzi stava per cedere, però si è irrigidito dopo il cosiddetto documento di Chiti. Cosa proprio non le va giù di questa riforma? Chiedono a Calderoli. Lui dice la non elettività dei senatori è una boiata pazzesca, innanzitutto perché il risparmio non incide più di tanto sulla spesa globale, si parla di 28 milioni su 500. E poi i 74 consiglieri regionali a Roma dovranno comunque essere spesati. E poi, in secondo luogo, è aberrante, dice Calderoli, che i cittadini non possono scegliere direttamente i propri rappresentanti. E infine, e qui lancia un ulteriore tema, va ridotto anche il numero dei deputati. E quindi, oltre alla riduzione dei senatori prevista appunto nel testo in discussione, anche, dice Calderoli, serve una riduzione del numero dei deputati. Questo sul Fatto Quotidiano. Abbiamo ancora 2-3 minuti per segnalarvi le questioni oggi in evidenza sui giornali e allora diciamo che la vicenda della secchiata d'acqua gelata per sensibilizzare contro la lotta alla SLA, la secchiata che il premier Renzi si è tirato chiamando in causa tra l'altro i direttori dei giornali, sicuramente ha avuto il merito di portare oggi tutti i giornali a interrogarsi anche sulla efficacia di questo tipo di coinvolgimento. E ad esempio sul Sole 24 Ore troviamo una pagina dedicata proprio alla lotta alla SLA, a questa malattia, dove Gilberto Corbellini ci informa appunto delle ricerche in corso. Solo il 10% dei casi risulta da fattori che hanno origine prevalentemente genetica. Questa malattia subdola e di causa ignota appunto non ha al momento una terapia efficace. L'unico farmaco che è in uso, ricorda Corbellini, dal 95 è Riluzolo, costa 5 compressa, in Italia è interamente rimborsabile, però ha soltanto l'effetto di ritardare di alcuni mesi il ricorso al respiratore artificiale. E poi però Luigi Corbella e anche una tabellina riportata su questa sulla pagina 13 oggi del Sole 24 Ore ci ricorda come il nostro sistema fiscale di fatto scoraggi la solidarietà, perché il sistema delle donazioni è comunque molto frammentato e in generale molto meno attraente di quanto può essere in altri paesi. Allo stesso modo, infatti, troviamo anche altri resoconti, altri lavori sulla SLA che vengono presentati oggi su altri giornali, ad esempio sul Corriere della Sera, dove si ricorda che appunto nei geni sta la chiave per battere la SLA. La sindrome è conosciuta anche come sindrome di Lou Gehrig e colpisce quasi 1800 persone. Attualmente i malati sono 6000. C'è stata sul punto anche una sorta di precisazione, per dir così, di Papa Francesco, che ha detto la generosità è nascosta. Papa Francesco era stato chiamato in causa da una di queste docce gelate. Ha detto il cristiano deve dare, ma la generosità è meglio se stia nascosta. Questa è la vicenda della SLA che viene ripresa un po' da tutti i giornali, ripeto, chiamati in causa da Matteo Renzi, dal Presidente del Consiglio, e rispondono anche con una sorta di rilancio sulla una richiesta di maggiore semplicità fiscale per le donazioni. E con questo è tutto, ancora una buona domenica a tutti voi da Mauro Meazza.